Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. La questione meridionale verso una svolta. Berlusconi riceve una maxi delegazione siciliana. Intanto è pronto il correttivo al decreto anticrisi dopo i rilievi di Napolitano. Oltre 8 milioni di poveri in Italia, quasi 5 italiani su 100 sono poveri tra i poveri, cioè, dice l'Istat, non raggiungono uno standard di vita minimamente accettabile. Precipitano in montagna durante un'escursione, muoiono così padre e figlio di 9 anni sul Monte Cavallo nel Bellunese. In Nigeria quasi 600 morti per gli scontri tra l'esercito e i ribelli islamici. Quattro film italiani alla prossima mostra del cinema di Venezia, presentata oggi, artisti ancora in fermento per Italia allo spettacolo. Ai mondiali di nuoto di Roma, Federica Pellegrini trascina le ragazze della staffetta 4x2 alla finale, in programma nel pomeriggio. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In primo piano dunque il rush finale del governo che cerca la quadratura sul decreto anticrisi e sul sostegno al mezzogiorno dopo le polemiche dei giorni scorsi. Oggi, tra l'altro, giornata decisiva per il nostro paese anche per un'altra questione, l'introduzione, cioè in Italia, della pillola per abortire già usata in altri paesi. La decisione dovrebbe arrivare a momenti, ma cominciamo da un'altra notizia, come avete sentito anche dai titoli, riguarda il numero dei poveri in Italia. L'Istat ne certifica oltre 8 milioni e in particolare quasi 5 italiani su 100 sono cosiddetti poveri tra i poveri. Allora sentiamo la fotografia dell'Istat, purtroppo non positiva, ce la racconta Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Alessio, non è positiva, ma anche se dobbiamo dire che la povertà è rimasta sostanzialmente stabile in Italia anche nel corso del 2008, secondo quanto appunto dice l'Istat. In realtà dietro questa stabilità i cambiamenti non mancano. Ecco, a trovarsi in condizioni di povertà assoluta è, come dicevi, il 4,6% delle famiglie italiane, parliamo di 1.106.000 famiglie, in valori assoluti sono 2.893.000 persone, il 4,9% dell'intera popolazione italiana che si trova in povertà assoluta, che è un indicatore che individua i più poveri fra i poveri, quelli che cioè non sono in grado di avere dei consumi, in grado di assicurare loro una vita dignitosa. Questo naturalmente è calcolato secondo indicatori statistici. Ecco, diciamo, il loro numero è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2007, ma in termini percentuali la povertà assoluta è aumentata, rileva l'Istat, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, che confermano quindi il loro divario, un divario storico con il resto del paese, ma la povertà assoluta è aumentata anche tra le famiglie che hanno più di 4 componenti, specie se tra questi 2 hanno figli e sono minori, e è aumentata anche nelle famiglie in cui il famiglia è un studio che supera la licenza inferiore. C'è poi l'indicatore della povertà relativa, che è più ampio e riguarda un numero più ampio di famiglie che non sono in povertà assoluta ma hanno comunque difficoltà a mantenere un certo standard di vita. Nel 2008, dice l'Istat, sono stimati in 2.737.000, rappresentano l'11,3% di tutte le famiglie italiane, e nel complesso parla l'Istat di 8.078.000 individui poveri. Il numero dei poveri. Esatto. Fermiamoci qua, grazie per ora ad Andrea Viali. Dunque, sentivamo anche da questi dati, la povertà, almeno in termini relativi, si concentra soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, che continua ad essere una preoccupazione, ad assillare anche il governo. Incontri ci sono proprio in corso in queste ore, come sapete c'è stata polemica su questo tema all'interno dell'esecutivo. E allora andiamo all'agenda del governo con il nostro Vincenzo Miglietta, perché poi in primo piano c'è anche la questione del decreto anticrisi. Cominciamo dal sud, Vincenzo. Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi accelera dunque sulla questione mezzogiorno. Domani arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi un piano per il Sud. Contestualmente il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sbloccherà circa 4 miliardi di risorse destinate ad alcune opere strategiche per la Sicilia. Il Premier ha di fatto preso di petto la questione meridione, che negli ultimi giorni ha agitato le acque nella maggioranza. Oggi Berlusconi ha prima incontrato la responsabile dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, assente ieri a Palazzo Grazioli in un primo vertice tra ministri. In In questo momento il Premier sta vedendo una folta delegazione di parlamentari e amministratori locali siciliani, tra i quali il sindaco di Palermo Cammarata, quello di Trapani Fazio e presente anche il ministro della giustizia Alfano. In serata il Presidente del Consiglio vedrà anche il sottosegretario Micci, che la questione sud per il Popolo della Libertà però è di fatto rientrata, il governo sta lavorando a 360 gradi, spiega il vice capogruppo Bocchino, ascoltiamo le sue parole. Dobbiamo evitare che ci siano proteste da parte di gruppi regionali per avere più soldi. Le risorse ci sono, ma devono essere messe a disposizione di reti infrastrutturali e di sviluppo che riguardano tutto il Mezzogiorno e che lo colleghino all'Italia del Nord e all'Europa. Critica l'opposizione, perfino Chiaro e Soro, Partito Democratico, quello di Berlusconi, sul sud è solo fumo, senza alcuna strategia, secondo l'Italia dei Valori il governo è vittima di veti contrapposti, sentiamo allora il capogruppo Donadi. Questo governo ormai non ha più una politica economica, è succube dei contrapposti egoismi, quello del nord, quello del sud, e non è capace di proporre un piano all'interno del quale stia l'interesse generale, collettivo e il futuro complessivo del nostro paese. Fin qua dunque, Vincenzo, la questione meridionale, come possiamo anche ribattezzare il problema del sud, in queste ore all'agenda del governo, ma c'è anche la questione della manovra correttiva al decreto anticrisi dopo i rilievi di Napolitano. A che punto siamo su questo fronte? Sì, su questo fronte ricordiamo che il decreto, che prevede tra l'altro lo scudo fiscale, la mini stretta sulle pensioni, la sanatoria per colf e badanti, interventi fiscali per le imprese, è al suo rush finale al Senato, il delibera dovrebbe arrivare domani in Senato con un voto di fiducia, sempre domani però il Consiglio dei Ministri varerà un nuovo decreto che andrà a correggere il provvedimento anticrisi su tre punti che sono stati oggetto di critiche trasversali delle forze politiche, ma anche fonte di rilievi da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, funzioni della Corte dei Conti, tassazione delle riserve auree della Banca d'Italia, poteri del Ministero dell'Ambiente. Alessio. Grazie Vincenzo Miglietta, ci fermiamo qua con la politica e facciamo un primo approfondimento, perché come dicevamo l'Agenzia per il Farmaco deve decidere proprio oggi sulla introduzione anche in Italia della pillola abortiva RU486, all'indomani della presentazione tra l'altro dei dati del rapporto sull'interruzione di gravidanza in Italia da parte del sottosegretario alla salute Roccella, e non si placano ancora le polemiche tra detrattori e sostenitori del farmaco. E allora sentiamo due opinioni. Cominciamo con chi è contrario, come il professor Antonio Lanzone, ordinario di ginecologia all'Università Cattolica di Milano. L'ha intervistato Valentina Furlanetto. Banalizzare la cosa, dandola all'utenza come una cosa molto self-made, molto semi-home da fare, insomma è una cosa che secondo me contiene dei pericoli. Cioè secondo lei dovrebbe essere gestita all'interno di una struttura ospedaliera? Ma anche laddove è gestita all'interno di queste strutture è avvenuta, ci sono questi rischi, per fortuna non enormi, altrimenti non staremmo manco a parlare qui dell'RU. Se l'RU avesse una mortalità dell'1% nessuno ne parlerebbe più, diremmo che è una cosa che non si può fare. Invece è un farmaco sicuro? In termini di efficacia sicuramente è un farmaco efficace, è un'efficacia che secondo gli altri ricercatori va dal 70 al 90%. Insomma. Ma quali sono le motivazioni della sua contrarietà? Due concetti su cui bisogna riflettere di più. Il primo è che l'idea che si può passare alla donna, che questo è un preparato che le consente un aborto meno traumatico, è tutto da perché qua siamo in una situazione in cui la donna avverte le contrazioni, il dolore quindi c'è, si prolunga nel tempo l'episodio di interruzione di gravidanza che è legato al fatto che bisogna avere contrazioni, e l'ovulo si deve, l'embrione si deve distaccare, deve essere espulso, insomma è come una sorta di iter un po' un aborto naturale che non si concretizza certo nel solo atto chirurgico, ma si concretizza in un iter temporale in cui la donna ha dei discomfort. Quindi dire che questo è un metodo in cui la donna è sicuramente favorita dal punto di vista psicologico non è vero, perché ci sono invece degli studi di letteratura fatti su questo che tendono a dimostrare il contrario, cioè la soddisfazione nelle donne non è poi così altissima. Questo è il primo dato. Il secondo dato su cui che io contesto è il fatto che questa situazione in altri paesi simili ai nostri Francia, Inghilterra, ha portato ad un incremento dell'interruzione di gravidanza. Questo dunque è il parere di chi si dice contrario all'introduzione della pillola anche in Italia. Sentiamo invece un sostenitore storico della RU486. Parliamo di Silvio Viale, ginecologo del Sant'Anna di Torino, il primo, tra l'altro, a sperimentare la pillola in Italia, sempre al microfono di Valentina Furlanetto. Si tratta di uno strumento in più in mano al ginecologo e alla donna in una situazione così delicata come l'interruzione di gravidanza. Quindi è un'alternativa all'aborto chirurgico, si può utilizzare in diversi modi e rientra in quella che è la varietà di decisioni mediche. Il fatto che la politica sia entrata così a piedi, a gamba tesa per cercare di bloccare quello che è un farmaco è incomprensibile. Peraltro il mifepristone, perché questo è il nome della molecola, è sempre più utilizzato in altri campi della medicina, dai tumori all'endometriosi, all'Alzheimer, alla depressione, alla sindrome endocrinologica. Il sottosegretario Roccella però dice che negli ultimi 20 anni ci sono state 29 vittime. Guardi, 29 vittime per qualunque farmaco non sarebbe un ostacolo a nessuna registrazione. Basti pensare che solo negli Stati Uniti nel 2003 ci sono state 59 decessi per l'aspirina. Ogni anno in Italia sono parecchi, ma nessuno pensa di togliere l'aspirina dal commercio. E l'esempio potrei farlo dal Viagra, che ha una mortalità di 10 volte superiore a qualsiasi altro farmaco. In realtà, se non fosse un farmaco usato per l'aborto, questo argomento non verrebbe mai sollevato in un consesso scientifico. I detrattori della pillola sostengono che la sua introduzione incentiverebbe la pratica dell'aborto. Lei cosa risponde? Questo è offensivo nei confronti delle donne, perché nessuna cerca di rimanere incinta per poi abortire, anzi gli aborti sono nettamente in discesa. La donna viene colpevolizzata ancora adesso sulla questione dell'aborto e non sa dove sbattere la testa. Io trovo donne che non sanno nemmeno dove è il consultorio, non ci penso neppure, mi telefono disperate pensando alla pillola o qua di più facile, poi capisco che non è così. Purtroppo le donne che abortiscono sono lasciate sole. E questo era Silvio Viale, ginecologo del Sant'Anna di Torino. Ricordiamo, decisione attesa in queste ore in Italia da parte dell'Agenzia per il Farmaco sull'introduzione nel nostro paese della pillola abortiva RU486. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di cinema, perché è stata presentata in questi minuti proprio la mostra del cinema di Venezia. E allora ce ne parla Marta Cagnola, che è qui in studio con noi. Marta, buongiorno. Buongiorno. Beh, intanto diamo subito il numero 4. 4 i film italiani che saranno in concorso a Venezia. Le indiscrezioni avevano già rivelato che ci sarebbe stato il premio Oscar Giuseppe Tornatore con la sua Baria. Ebbene, c'è, ci sarà, è il film d'apertura. E poi Michele Placido con Il sogno sessantottino, Il grande sogno si intitolerà, L'outsider Giuseppe Capotondi con La doppia ora e Francesca Comincini con Lo spazio bianco dal libro di Valeria Parrella. Ebbene, saranno in corsa per il Leone d'Oro, assegnato quest'anno dalla giuria presieduta da Ang Lee. Una curiosità: in giuria c'è anche Luciano Ligabue, rocker e regista. Singolare, sì. Esatto. E poi ci sono, per sapere anche gli stranieri che concorreranno al Leone d'Oro, c'è Fatih Akin, difficilissimo da dire, con Soul Kitchen, addirittura lo stilista Tom Ford con A Single Man, Werner Herzog con Bad Lieutenant, poi insomma Todd Solondz, Giorgio Romero, maestro dell'horror, da segnalare anche The Road, dal romanzo di Cormac McCarthy con Viggo Mortensen e Charlize Theron, che insomma sarà vedere sul red carpet. Forse tra qualcuno di questi stranieri di cui hai parlato, chissà, perché insomma i film, se non sono super stranieri a Venezia, non vincono. Se non sono asiatici puoi forse dire. È stata un po' questa tendenza negli ultimi anni. Comunque belli anche i film italiani che partecipano, Marta. E invece, per quanto riguarda, che poi insomma attirano sempre il pubblico, anche grandi ospiti, grandi nomi, c'è qualche previsione già? Beh, intanto ti do subito dei nomi molto pesanti. Michael Moore, che porta al Lido di Venezia il suo Capitalism a Love Story. Aiaia, e poi polemiche. Ci sarà George Clooney, insomma vedremo se arriva con Elisabetta Canalis, visto che oggi su tutti i giornali è la notizia del momento. Protagonista fuori concorso con Jeff Bridges di The Man Who Stare at Goats, e poi appunto questa Charlize che piace sempre vedere sfilare. Benissimo, Marta, io mi fermerei qua, anche se restiamo in tema, perché vorrei andare a Roma, dove è stata presentata la mostra del cinema di Venezia, con Chiara Di Michele, perché è andata in scena anche la protesta degli artisti del mondo dello spettacolo. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno. Nuovamente, è proprio sì. Così, questa mattina molti dei protagonisti del mondo dello spettacolo e del cinema, da Carlo Verdona, Laura Morante, Claudio Santamaria, Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi e tanti altri, sono presentati all'Hotel Excelsior per far sentire la loro voce, per continuare a protestare contro i tagli al Fondo Unico dello Spettacolo. Attori, autori, artisti colgono l'occasione della mostra del cinema di Venezia come vetrina internazionale per chiedere solidarietà ai giornalisti, ai loro colleghi, all'opinione pubblica di tutto il mondo, perché sottolineano che questo governo sta azzerando la nostra cultura e il nostro cinema. Sulla promessa di Silvio Berlusconi, arrivata ieri, di incrementare le risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, Gianmarco Tognazzi si è mostrato ottimista. Sentiamolo. Siamo molto contenti che abbia, ci sia esposto, che abbia detto questo, anche perché credo che sappia il valore e l'importanza della cultura e del patrimonio culturale italiano, per cui è importante che le promesse che Bondi aveva fatto vengano a questo punto mantenute dal Presidente del Consiglio. È un uomo di parola e quindi allora ci crediamo, lo aspettiamo solo quello, anche Forza Milan. Ricordiamoci che mentre negli altri paesi i film in produzione crescono, nel nostro paese sono passati da 120 a poi effettivi che escono una trentina. Non può arrivare l'Italia, 60 milioni di persone, avere una produzione inferiore alla Norvegia che ne ha 4. Meno ottimista e più critica invece è Stefano Accorsi, sentiamo anche lui. Non è questo il problema, ha parlato di 60 milioni di euro, detti così sembra una cifra enorme, cioè se uno pensa appunto a 240 mila lavoratori, a quante produzioni teatrali, di opera, di cinema c'è in Italia, è nulla, noi investiamo pochissimo rispetto ad altri paesi d'Europa, bisognerebbe non toccare per il momento, anzi lasciare i fondi come erano prima di questi tagli e ricreare la legge, se ci sono stati degli sprechi, capire dove sono stati e fare in modo che non ci si ripetano, ma non si può tagliare e poi dare questa specie di reintegro simbolico, non è quello che cambierà le cose, bisogna che ci sia una legge solida, bisogna che questo Stato preda della propria cultura, che sia un investimento importante da fare. Questo dunque a margine della presentazione della Mostra del Cinema di Venezia a Roma. 13 e 20 minuti, GR Extra Large. Nella prima parte ci siamo occupati della fotografia dell'Istat sui poveri in Italia, quasi e poco più di 8 milioni nel nostro paese, appunto. E poi l'agenda del governo con la questione meridionale verso una svolta. Berlusconi sta ricevendo una maxi delegazione di rappresentanti della Sicilia. Intanto è pronto il correttivo al decreto anticrisi dopo i rilievi di Napolitano. E poi abbiamo parlato anche della presentazione della mostra del cinema di Venezia, avvenuta proprio in questi minuti a Roma, con il mondo dello spettacolo ancora in agitazione per il taglio al Fondo Unico per lo Spettacolo. E adesso andiamo invece su un altro tema, perché ultimamente l'attenzione si è concentrata sul consumo di alcol da parte dei giovani, soprattutto nei locali notturni e in particolare anche nelle discoteche, dove dopo le 2 di notte vige il divieto di vendita. E il Codacons ha cercato di vedere che cosa succede realmente in questi locali, se il divieto viene rispettato o in qualche modo, come sentiremo, anche in parte aggirato, e perché. E allora chiediamo tutto ad Alessandra Schepisi, che ha seguito la presentazione di questi dati, tra l'altro con il sottosegretario Giovanardi presente anche lui. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. In Italia sostanzialmente non si rispetta il divieto di vendita di alcolici nelle discoteche dopo le 2. La denuncia è appunto del Codacons, che ha condotto un'indagine in centinaia di locali. L'associazione ha inviato proprio ispettori in discoteche e pub con le telecamere nascoste. Beh, nell'80% dei casi questi ispettori hanno potuto tranquillamente sorseggiare birre superalcolici ben oltre il limite orario fissato dalla legge. E non solo, denuncia il Codacons, il 50% delle discoteche che violano la legge retrodatano l'orario delle casse, così da far risultare l'emissione dello scontrino antecedente alle 2. L'associazione ha quindi presentato una serie di ricorsi di esposti ai NAS e poi ha illustrato una ricerca in base alla quale si dimostra come il consumo di alcolici cresca proporzionalmente al volume della musica, insomma con più decibel si beve di più. Ma sentiamo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. È uno spettacolo sconcertante, non si capisce che vendere alcolici dopo le 2 insieme con rumori assordanti, musiche assordanti, crea uno stato di stordimento che poi va a finire nei 1700 morti giovani che solo nel 2007 hanno insanguinato le nostre strade. L'Italia però è tra i paesi che consuma meno alcol in Europa. Beh, certo, perché la nostra tradizione e soprattutto sul vino, e sul vino non si fanno le statistiche, attenzione, quindi se si facesse le statistiche credo che non sarebbe poi tanto poco. Ma noi non siamo contro l'alcol in generale, siamo contro creare situazioni di stordimento, di pericolo, che portano questi poveri ragazzi poi usciti dalle discoteche a morire sulla strada. E ringraziamo anche Alessandra Schepisi per questa notizia. Certo, non, insomma, si terranno, credo, ben lontani dall'alcol i campioni del nuoto che si tuffano in piscina in queste ore mondiali di nuoto. E allora andiamo a Roma, perché in attesa delle finali di oggi ci sono i 100 stile libero uomini, dove purtroppo non gareggia il nostro Filippo Magnini perché è stato eliminato. E poi c'è la 4x200 donne con le azzurre in cerca di gloria, e vedremo a fianco proprio Federica Pellegrini e Alessia Filippi. Allora andiamo a Roma con il nostro inviato Dario Ricci. Buongiorno, buongiorno Alessio. Tra l'altro, notizia della mattina, la 4x200 si è proprio qualificata per la finale con l'ottavo tempo, un po' di sofferenza, non c'era Alessia Filippi e un turnover previsto in vista della finale, c'era invece Federica Pellegrini che è stata decisiva con la sua rimonta nell'ultima frazione. Com'è andata, Dario, secondo te, a parte l'ottavo tempo, insomma, come le hai viste in acqua? Federica benissimo, perché la forma è quella di questi giorni e ce ne siamo fatta un'idea. Le altre ragazze un po' più in difficoltà, in particolare la Zoccari, ma si sa, poi nuotare al mattino è sempre un impegno diverso. Esattamente, è un po' più difficile. Speriamo che invece stasera un po' la musica cambi, perché con Alessia e Federica in acqua si può anche pensare a qualcosa di bello. Ecco, soprattutto la Filippi, che normalmente nuota a misure e distanze molto più lunghe, adesso invece si cimenterà con questi 200 metri. Dario, tra l'altro tu in queste ore immediatamente successive alle grandi soddisfazioni che hanno raggiunto per tutti noi italiani sportivi la Filippi e la Pellegrini, tu hai anche un po' sbirciato dietro le quinte delle loro vite sportive e non solo. Sì, siamo un po' entrate nelle camere della loro foresteria, perché dietro ogni grande impresa ci sono tanti fattori umani che influiscono. Ieri proprio Federica ci raccontava di questa pizza che nella sera della vigilia le ha portato la mamma e che insomma è stata carburante prezioso poi in vista della finale di ieri, e abbiamo incontrato un po' le due compagne di stanza di Alessia Filippi e Federica Pellegrini. Una Elena Gemo, entrambe sono dorsiste, Elena Gemo è la compagna di stanza di Alessia Filippi e hanno uno splendido rapporto, veramente una squadra, tant'è che proprio Elena ci ha raccontato un bel episodio derivante proprio dal podio di Alessia Filippi sui 1500 stile libero. Sentiamo allora l'intervista con Elena Gemo. Alessia, quella garona che ha fatto mi ha caricato anche tanto, devo dire la verità. È stata gentilissima, carinissima, perché non me l'aspettavo. Sì, ovviamente come se fatti lei al podio, perché io l'ho salutata, mi ha visto e fa 1-0-1 la nostra camera. Senti, è difficile condividere la camera con una campionessa di questo livello, ogni tanto dici, beh, oddio, ma lei... magari è il letto, cambiamo letto. No, ma lei, guarda, è una ragazza semplicissima, umile, cioè siamo tanto amiche da sempre, non è cambiata di una virgola da quando è più forte. E questo, io li voglio bene anche per questo, perché è sempre lei, è sempre Alessia, è sempre sorridente con tutti, disponibile. E quindi io le voglio bene tantissimo. È bello avere un pezzetto anche di quella medaglia, no? Sì. Dei bambini mi chiedevano, ma sei la sorella? Sei la sorella? No, ma è quasi come se lo fossi, perché siamo talmente amiche che veramente ci vogliamo bene, veramente. Ecco, due campionesse sempre sorridenti, umili, e che sanno stare con le compagne di squadra, insomma c'è da non crederci, Dario. E invece no, a parte gli scherzi, raccontaci qualcosa anche su Federica, visto che hai curiosato intorno anche alla sua vita privata, sportiva e non solo. Beh, direi che un pezzetto anche dei trionfi di Federica va anche in questo caso, come già sentivamo con la coppia Elena Alessia, alla sua compagna di stanza Laura Letrari, anche lei dorsista, un mondiale sfortunato per lei perché ieri non ha passato le qualificazioni dei 100 dorso, ma ha regalato a Federica delle piccole pietre shatsu che Federica tiene sul comodino della stanza, a volte volte sotto il cuscino quando riposa, simbolo di forza e tranquillità. Beh, forse non sarà proprio tutto merito delle pietre, però i risultati che si sono visti in piscina fanno pensare che anche Laura abbia dato il suo piccolo contributo a questi straordinari trionfi. Allora sentiamola proprio al nostro microfono. È nata che volevo darle un portafortuna che venisse da parte mia, e visto che io con le pietre lavoro molto, non volevo regalarle un tipico corno o quelle cose là, portafortuna, se no volevo darle qualcosa di mio, e così è stato, ho scelto quelle precise che servivano a lei e niente, gliele ho date appena sono arrivata. Senti, insomma, scherzandoci un po', allora un pezzetto di questo grande mondiale che sta facendo è anche merito tuo e di queste pietrine. No, vabbè, tutto è tutto sicuramente merito suo, di quel suo lavoro che ha fatto con Alberto e della testa che c'ha. Magari un centesimo di tutto quanto potrebbe essere. La convivenza in camera dopo queste medaglie, come sta andando? Stupenda, una motivazione veramente, ti gasa, ti carica. Purtroppo a me non sono riuscita a esprimere il meglio, però vabbè, pazienza, comunque posso solo che imparare da lei, quindi va bene così. Ed eccoci qua, allora richiudiamo così simbolicamente le porte che avevamo aperto sulle vite private, insomma non del tutto, ecco, dal punto di vista sportivo, questo sì, su Federica Pellegrini, Alessia Filippi, Dario Ricci. Rinnovaci invece l'appuntamento per le gare, soprattutto la semifinale questa sera. Tra l'altro, Dario, in una garetta sarai impegnato anche tu tra poco, no? Sì, per carità, non possiamo, nessuna comparazione con quello che stiamo vedendo in piscina in questi giorni, ma c'è la grande opportunità di fare un tuffo in questa straordinaria piscina, nella stessa piscina di Federica Pellegrini e Michael Phelps e Alessia Filippi, una gara per giornalisti. Beh, diciamo, l'obiettivo è arrivare dall'altra parte e potervela raccontare, Alessio. Tutt'altra cosa saranno invece le finali di stasera, 18:34, la straordinaria finale dei 100 metri maschili con il duello tra Alain Bernard e il brasiliano Cielo, non ci sarà, come ricordavi, Magnini, e poi la staffetta intorno alle 19:30. Entriamo con l'ottavo tempo, come dicevamo, ma sognare non costa nulla. E allora grazie a Dario Ricci, lo lasciamo a mollo nella piscina del Foro Italico e proviamo a fare un passo in avanti, perché per due campionesse di cui abbiamo parlato fino ad ora, come la Pellegrini e la Filippi, che sono nel pieno della loro attività sportiva, ci sono, è notizia proprio di ieri, grandi campioni dello sport che non ce la fanno a stare in panchina e ritornano. Parliamo di Michael Schumacher. Allora, qui con il nostro Dario Ceccarelli vogliamo proprio un po' capire, fa un certo effetto questa notizia, non se l'aspettava nessuno, piuttosto clamorosa per la Formula 1. Sì, è clamorosa anche perché per la Formula 1, diciamolo, è una bella boccata d'ossigeno, perché la Formula 1 quest'anno è stato un susseguirsi di lotte intestine, di carte bollate, di ricorsi incomprensibili. Il ritorno di Schumacher è una di quelle cose, è un bel titolo, no? Schumacher torna, finalmente riempie quei vuoti di cui non ne poteva più, di quelle strane lotte intestine che Mosley, insomma, che avevano stancato gli appassionati, per cui in questo senso è una boccata d'aria fresca. Non è il primo ritorno nella Formula 1, ricordiamo Niki Lauda ad esempio, che andò via a 30 anni perché mancanza di motivazione, a 33 anni ritornò e fece delle grandi cose conquistando un titolo mondiale nell'84. Guardando un po', questo è un caso positivo, però guardando un po' indietro, insomma, fra altro anche non troppo indietro, perché possiamo arrivare anche al Tour de France di qualche giorno fa, abbiamo rivisto Armstrong, anche questo è stato un po' di clamore, ma insomma alterne fortune, a volte bene, a volte non tanto bene. Dici benissimo, perché vabbè, Lance Armstrong ha fatto un ritorno positivo, terzo al Tour de France. È vero che ha quella faccia un po' arrogante di uno che torna con tutto quel seguito di guardie del corpo, carrozzone, però insomma un atleta coi fiocchi. Ci sono stati atleti che invece hanno fatto dei ritorni mesti, tristi, ricordiamo, non so, uno per tutti, perfino Mohamed Ali non seppe resistere al richiamo del ritorno, no? E dopo aver lasciato la carriera si ripresentò due volte e perse. Ma pensiamo anche, non so, Carnera, un altro pugile che fece il lottatore, quasi una specie di wrestling prima del tempo, e poi Tyson, e poi non so, tipi anche come, non so, lo stesso Maradona che ritornò ai mondiali, sì, in quella versione un po' che ricordiamo, con quella faccia così sullo schermo, gonfietta, un po' gonfia, che fu squalificato poi dai mondiali. Insomma, il ritorno non è facile, sono un po' come gli attori, non sanno lasciare alcun palcoscenico. Vedremo il palcoscenico, e poi c'è il Viale del Tramonto, che invece anche in pubblico quello è brutto. Eh sì, vedremo Schumacher come l'affronterà. Grazie Dario Ceccarelli. 13.35 GRX a large, le notizie di oggi. La questione meridionale verso una svolta. Berlusconi riceve una maxi delegazione siciliana. Intanto è pronto il correttivo al decreto anticrisi dopo i rilievi di Napolitano. Oltre 8 milioni di poveri in Italia, quasi 5 italiani su 100 sono poveri tra i poveri, cioè, dice l'Istat, non raggiungono uno standard di vita minimamente accettabile. Precipitano in montagna durante un'escursione, muoiono così padre e figlio di 9 anni sul Monte Cavallo nel Bellunese. In Nigeria quasi 600 morti per gli scontri tra l'esercito e i ribelli islamici. 4 film italiani alla prossima mostra del cinema di Venezia, presentata oggi. Artisti ancora in fermento per i tagli allo spettacolo. Ai mondiali di nuoto di Roma, Federica Pellegrini trascina le ragazze della staffetta 4x2 alla finale, in programma nel pomeriggio. E allora andiamo subito a Treviso, ci colleghiamo con Gianni Favero, perché sono molti in queste ore, in questi giorni, andare naturalmente in montagna per fare delle escursioni, però capita purtroppo anche che ci siano degli incidenti. È successo sul Bellunese. Che cosa è successo esattamente, Gianni Favero? Buongiorno. Buongiorno. Il bambino che scivola, il padre che cerca di afferrarlo, ma che a sua volta perde l'equilibrio e precipita. E questa è la dinamica più plausibile dell'incidente che ha portato alla morte un uomo di Godega Sant'Urbano nel Trevigiano, Stefano Dalcin, di 41 anni, ed il figlio Samuele, di 9. Il fatto è accaduto sulle montagne dell'Alpago, fra le province di Belluno e Pordenone. I due erano partiti ieri mattina per un'escursione da Colindes, diretti verso il Monte Cavallo. Alle 13.30 una pausa al rifugio Semenza e poi il silenzio. A casa li hanno attesi fino all'imbrunire, quindi è stato dato l'allarme. Il soccorso alpino ha però individuato purtroppo i corpi solo stamattina ai piedi di un ghiaione 40 metri più in basso del sentiero. Ora qualcuno parla di imprudenza da parte dell'uomo, ma il tempo ieri era bello e stabile ed il sentiero scelto è di norma percorribile senza particolari attrezzature. La data dei funerali a Godega Sant'Urbano sarà lutto cittadino. Grazie Gianni Favero da Treviso. Allora ricordiamo naturalmente, anche se forse non sappiamo quanto possa essere utile, prudenza nelle escursioni in montagna, che naturalmente si fanno in questi giorni d'estate molto volentieri. E adesso invece andiamo con un dato economico di giornata che riguarda l'occupazione nelle grandi imprese, che secondo l'Istat è calata a maggio del 4,2% rispetto all'anno scorso, al netto tra l'altro della cassa integrazione. E chissà se invece qualche spunto occupazionale viene dalla giornata a cui ha partecipato la nostra Cristina Fei, presente il ministro dell'agricoltura Zaia. Si parlava di volti di giovani italiani impegnati proprio nell'agricoltura. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono qui al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dove il ministro Zaia ha appena inaugurato la galleria fotografica La Terra Siamo Noi. È un messaggio positivo per tutti i giovani agricoltori che vanno aiutati e incentivati. I dati infatti parlano chiaro, in Italia ci sono 1.700.000 aziende agricole e pensate, solo il 10% dei conduttori ha meno di 40 anni. Di questi la maggior parte lavora nelle aziende familiari e appena il 15% ha deciso di diventare imprenditore autonomo. Il ministro ha poi fatto sapere che con il via libera da parte della Camera dei Deputati al decreto anticrisi è stato approvato anche il provvedimento Terre e Giovani, che consente di attribuire attraverso bando agli imprenditori poco più che trentenni terre demaniali dove far nascere nuove aziende agricole, ortofrutticole di prodotti tipici. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Cristina Fei. Adesso andiamo con alcune notizie dall'estero. Sono almeno 600 le persone uccise in Nigeria durante gli scontri tra l'esercito nigeriano e gli estremisti islamici della setta Boko Haram, iniziati domenica scorsa. Durante i raid di oggi, che hanno martellato cancellato diversi quartieri di Maiduguri, l'esercito nigeriano ha ucciso il numero due dei talebani, Abdulkar Shekan, e circa 200 estremisti islamici. E adesso una notizia invece dall'Iran, perché di poco fa la polizia antisommossa sta cercando di disperdere a colpi di manganello la folla, dunque ancora manifestazioni e scontri con la polizia. La folla, dicevamo, riunita nel cimitero della capitale, e quanto riferiscono testimoni sono circa 500 le persone riunite per commemorare le vittime degli scontri nelle manifestazioni avvenute nei giorni scorsi contro il presidente rieletto Ahmadinejad. Adesso andiamo con i giornali stranieri. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo con una notizia che ci riporta indietro di qualche giorno alla condanna di Bernard Madoff. Sì, questo finanziere spericolatissimo che è stato condannato, probabilmente morirà in carcere, questa condanna esemplare perché ha truffato per miliardi di dollari in tutto il mondo, e si è sempre detto che la moglie, o meglio la moglie Ruth Madoff, che tra l'altro non riesce a trovare a casa a New York, non può più andare dal parrucchiere perché tutti la odiano e la evitano come appunto la moglie del grande satana della finanza, e però lei ha sempre detto: io non sapevo niente di quello che faceva mio marito. Naturalmente difficile da credere perché viveva questa vita assolutamente regale, e adesso spiega Financial Times in prima pagina, questo trustee, questo insieme di persone che si sono messe insieme per cercare di recuperare un po' dei soldi che Madoff ha truffato, hanno preso di mira proprio lei. Pensano di poter recuperare in breve tempo 45 milioni di dollari che lei avrebbe in qualche modo nascosto in conti, o comunque che con soldi recuperabili anche dalla vendita di alcune proprietà della stessa Ruth. I prossimi saranno i figli, perché anche i figli di Madoff hanno sempre detto di non sapere niente, ma anche questo sembra poco credibile. Giulia, invece da Le Monde una notizia che riguarda, se vogliamo, l'integrazione culturale con il mondo dell'immigrazione. Non so perché si sono messi a fare i conti di quanti burka ci sono in Francia. Sì, così. Sappiamo che la questione del velo e della legittimità di essere completamente velati quando per esempio ci si presenta per fare un documento, e poi tempo fa in Francia si era proprio detto, si era addirittura ipotizzato di mettere fuori legge il burka, e addirittura un sito internet arabo negli scorsi giorni ha detto che il malore di Sarkozy era la vendetta di Allah, proprio perché lui aveva osato pensare di rendere illegale il burka. Ma amenità a parte, perché è una questione in realtà secondo me molto seria, quella del burka e di se è o no una grande limitazione alla libertà femminile, però bisogna parlare di numeri, cioè dire di come si è detto in Francia, di renderlo illegale. Le Monde oggi fa il punto: sarebbero 367 le donne in Francia costrette o che comunque decidono di portare il burka, è un numero che lo stesso Le Monde giudica marginale, quindi forse sarebbe curioso sapere come hanno fatto a sapere che sono 367, perché non deve essere facilissimo fare un censimento. Sì, i dati infatti vengono un po' dall'equivalente delle nostre questure, però hai ragione, c'è da chiedersi come si possa arrivare a un numero così preciso. Comunque, se così fosse sarebbe davvero un numero piuttosto basso. Grazie Giulia Crivelli, oggi ci fermiamo qua. Adesso ci prendiamo una pausa, parliamo di libri, perché è ambientato durante la guerra civile spagnola del 36 il romanzo di Pablo Rossi che si intitola L'ombra del poeta, pubblicato da Murcia. In questo giallo storico, naturalmente, l'uomo che ha ucciso García Lorca all'ordine di compiere un attentato. Ma ecco come l'autore descrive i suoi personaggi al microfono di Alessandra Tedesco. Da un lato c'è un uomo che rappresenta le forze ribelli, il franchismo, la falange, eccetera, che si chiama Gutiérrez. Dall'altra parte c'è un commissario della Seguridad repubblicana che naturalmente cerca di controbattere le iniziative del primo personaggio. E poi c'è ancora un altro personaggio controverso che è presentato con un soprannome, Dedalus, e questo è un esponente del comunismo staliniano e si trova in missione in Spagna con un obiettivo molto preciso. Questi tre personaggi interagiscono, lottano tra di loro in mezzo al difficilissimo contesto della guerra civile spagnola. Un romanzo sulla guerra civile spagnola, dunque. Quanto c'è di storico, di vero, e quanto di inventato o frutto della fantasia? Di vero c'è, diciamo, tutto il contesto in cui si svolge. Ci sono diversi personaggi delle varie parti che compaiono, tanto per non fare nomi, nell'intelligenza che fiancheggiava i repubblicani appaiono uomini come Hemingway e Marot, oltre a numerosi intellettuali spagnoli. Tra i franchisti appaiono lo stesso generale Franco e alcuni dei suoi generali. Diciamo grosso modo in questo romanzo c'è un 30% assolutamente irreprensibile sul piano storiografico, sul quale poi si appoggia tutta la fiction di una lunga vicenda appunto di carattere noir. E adesso invece una agenzia di poco fa che viene dalla Puglia, da Bari, i carabinieri nelle sedi di alcuni partiti. I carabinieri si sono presentati questa mattina in 6 sedi di partiti del centro-sinistra a Bari. I militari hanno acquisito i bilanci dei partiti della regione Puglia nell'ambito dell'indagine del pubblico ministero di Geronimo sul presunto intreccio tra mafia, politica e affari nella gestione degli appalti pubblici del settore sanitario. Indagate sarebbero 15 persone, tra cui anche l'ex assessore regionale alla sanità Alberto Tedesco, che ora è senatore del Partito Democratico. 13:47, rientriamo con un aggiornamento dall'Iran. Abbiamo parlato di centinaia di persone riunite oggi al cimitero della capitale per commemorare le vittime degli scontri avvenuti proprio nei giorni scorsi durante le manifestazioni contro il regime del presidente Ahmadinejad. La polizia ha compiuto diversi arresti e si apprende anche che il leader dell'opposizione iraniana Mousavi è stato costretto proprio dalle forze dell'ordine a lasciare il cimitero dove si doveva svolgere la commemorazione appunto delle vittime degli incidenti seguiti alle presidenziali del 12 giugno scorso. Adesso invece andiamo con una vicenda tutta italiana. I parenti delle vittime delle stragi terroristiche italiane, parliamo per esempio di quella di Bologna, di quella della Piazza della Loggia, Piazza Fontana, Italicus e via andando, hanno scoperto in questi giorni che le loro pensioni sono state bloccate e sospese. Siamo tra l'altro alla vigilia della strage del 2 agosto del 1980, la bomba alla sala d'aspetto della stazione di Bologna, ci furono 85 morti e più di 200 feriti. Tra l'altro i familiari hanno scoperto anche che le pensioni del 2006, in base alle quali feriti con invalidità dell'80% hanno diritto ad una somma pari all'ultimo stipendio percepito, sono state addirittura derubricate. E allora ne vogliamo parlare con Paolo Bolognesi, presidente dell'Unione Familiari delle Vittime delle Stragi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa succede? Come mai questa decisione che ovviamente sa di beffa? Fra l'altro voi, insomma, ricordiamo, non è che chiedete elemosina, qui parliamo anche di pensioni di invalidità. Sì, no, il problema è molto semplice. Nella legge 206 del 2004, perciò stiamo parlando di una legge di 5 anni fa, c'è una norma che prevede che coloro che hanno un'invalidità pari o superiore all'80% possono andare in pensione con l'ultimo stipendio percepito, no? Allora, l'INDAP ha immediatamente eseguito la norma. L'INPS ha fatto muro e non ha voluto assolutamente eseguire questa norma. Allora il governo Prodi ha fatto una direttiva ministeriale del primo ministro mettendo a posto quella norma, ma anche questo non è bastato all'INPS. Allora ancora, quando siamo arrivati alla finanziaria del 2007, la norma è stata ricorretta per fare in modo che all'INPS andasse bene. Ci sono voluti 10 mesi perché l'INPS facesse questa norma sua e la mettesse all'interno di una sua circolare, però non ha mai dato esecuzione alla norma. Allora ci siamo trovati con l'INPS che non voleva assolutamente applicare questa norma e il governo che si è trovato a dirimere la questione. Il governo, anziché assumersi le sue responsabilità e imporre che la norma venisse applicata, ha fatto presto, ha chiesto un parere al Consiglio di Stato. Con la richiesta di questo parere al Consiglio di Stato, allora anche l'INDAP cosa ha fatto? Ha mandato una lettera a coloro che avevano già percepito la pensione di invalidità pari al 100% dell'ultimo stipendio, dicendo: guardate, quella pensione non è più da considerarsi definitiva, ma è da considerarsi provvisoria. Temporanea. Senta, temporanea. Lei... Allora, voglio dire, questo è una cosa che ha dell'incredibile, ecco, capito? Vittime in qualche modo due volte, in questo caso della burocrazia. Stiamo parlando parlando di vittime all'80%, apparentemente. Cioè non è che stiamo parlando, sì, di esempi che così, ha capito? Lei ha detto tra l'altro che ha scritto subito a Berlusconi, Berlusconi le ha risposto, però lei non vuole dire cosa le ha detto, lo dirà no, solo il 2 agosto. No, lo dirò il 2 agosto, perché mi auguro che prima del 2 agosto arrivi qualche cosa. Cambi qualcosa. Insomma, perché voglio dire, se la cosa deve stare con la lettera che ha mandato Berlusconi, è, insomma, è un'ulteriore mossa così. Senta, uno zuccherino e stai buono, insomma, ecco. A pochi giorni proprio dal 2 agosto, una brevissima riflessione, perché questo è un paese che continuamente si arrovella sul suo passato, sulle questioni ideologiche, sulla violenza politica degli anni 70, torna continuamente di moda, però poi di attualità, se non di moda, insomma, però poi quando si tratta di rendere il doveroso omaggio alle vittime, tutto cade nell'oblio. Condivide questa riflessione? Sì, sì, noi tra l'altro abbiamo fatto un manifesto che è molto significativo, almeno proprio per questo argomento. Sembra che il governo sia andato dietro a quello che abbiamo detto nel manifesto, cioè la certezza della pena in questo paese è riservata esclusivamente alle vittime e ai loro familiari. E quando parlo di pena parlo della certezza sia per quello che riguarda la giustizia e sia per quello che riguarda anche, non so, infatti come la legge 206. Lei immagini questo, c'è una legge, il Parlamento l'ha votata all'unanimità, l'ha approvata all'unanimità. Poi all'unanimità è praticamente una legge inattuata, questo lei vuol dire. Poi il Parlamento, sia Camera che Senato, hanno votato degli ordini del giorno dettagliati per la sua applicazione e il governo e i funzionari dell'INPS non la applicano. È una cosa che ha dell'incredibile. Questo è chiaro ed è quello che ci ha raccontato Paolo Bolognesi ai nostri microfoni. Grazie per essere stato con noi, il Presidente dell'Unione Familiari delle Vittime delle Stragi. Adesso c'è un aggiornamento invece che riguarda le violenze sessuali a Roma, perché anche il test BIS ha confermato che il DNA prelevato dai reperti delle vittime dello stupratore seriale di Roma corrisponde con quello di Luca Bianchini, ricorderete che era stato accusato almeno di 3 violenze avvenute tutte in garage condominiali della capitale. Adesso invece parliamo di televisione, perché è notizia di ieri, Rai e Sky divorziano, è ufficiale l'annuncio arrivato dall'amministratore delegato di Sky Italia Tom Mockridge, anticipando tra l'altro i tempi della fine formale anche di una lunga trattativa. Ne parliamo con Antonio Franco, giornalista di Mille Canali, buongiorno. Buongiorno anche ai telespettatori. Ecco, allora, la cosa è questa, 5 canali satellitari della Rai escono dalla piattaforma Sky, dove vanno? Cosa cambia per i telespettatori? Questa è la prima domanda, Franco. Cosa cambia? Questi canali dovrebbero essere disponibili sulla piattaforma TVSAT, che è la piattaforma costituita dal consorzio Rai Mediaset Telecom La 7, e che per il momento almeno è free, quindi non a pagamento, anche se ovviamente per esigenze di diritti internazionali dei prodotti che vengono trasmessi, alcuni dei prodotti che vengono trasmessi, è prevista comunque un criptaggio che ovviamente è nagra in questo caso, uguale a quella del digitale terrestre per capirci, per cui domani ovviamente non si esclude neanche che poi possa diventare comunque anche questa eventualmente una piattaforma in parte a pagamento. Credo che insomma i telespettatori di Sky, quelli che hanno il decoder, insomma sopravviveranno alla mancanza dei 6 canali Rai, perché l'offerta di Sky 5+1, perché 5+1, sì. Rai Sat Extra, Premium, Smash, Yo-Yo e Cinema sono i 5 canali che dicevi tu, che a questo punto da mezzanotte di oggi in teoria non dovrebbero essere più su Sky. Non dovrebbero, perché c'è un condizionale, è arrivata un'agenzia di pochissimi minuti fa che dice che il direttore Masi, che in questi giorni ha avuto un piccolo problema di salute, ha dovuto fare un intervento all'occhio, eccetera, oggi non ha potuto presidiare una riunione che forse in parte è ancora in corso, dovrebbe essere appena finita, credo, per cui questa riunione si è conclusa da poco, però comunque arriva questo comunicato ufficiale che dice che lunedì il direttore generale Masi farà una conferenza stampa per parlare dirà la sua. Del costo di Sky, dirà la sua. Ecco, facciamoci anche, sì, prego. Cosa dirà non si sa, perché in teoria a mezzanotte comunque scade questo contratto. E vabbè, non c'è una chiusura definitiva, per cui in teoria quanto teorico poi bisogna vedere, si potrebbe ancora recuperare. Trovare una soluzione. In realtà quello che poi conta saranno i Rai 1, Rai 2, Rai 3, quelle staremmo a vedere. Dicevo, credo che gli spettatori di Sky sopravviveranno, l'offerta è molto ampia, i 5 più 1 canali satellitari Rai traslocheranno altrove, però facciamoci due conti, perché l'offerta di Sky era cospicua, la Rai in questo modo rinuncia a un sacco di soldi e quindi che fa? Una decisione antieconomica? Allora, intanto sì, Rai in questo modo perderebbe, usiamo ancora il condizionale, circa 50 milioni annui, per i prossimi 7 anni Sky aveva garantito un minimo garantito di 350 milioni di euro per i 7 anni, quindi circa 50 milioni l'anno appunto, e, per questo pacchetto di questi 5-6 canali. E quindi questi sono soldi che la Rai andrebbe a perdere, quindi a questo, a questo punto invece di vedrai potremmo coniugare il termine perderai. E, dopodiché in realtà c'era anche un pacchetto di film di cui mi sfugge in questo momento l'esatto corrispettivo che Sky però era una cifretta Rai, anche quella, insomma sommando tutto perderai ancora questo, di più. A questo poi si sommerà eventualmente, ma non c'entra niente indirettamente, una perdita di 150-200 milioni di euro che dovrebbe perdere la Rai quest'anno come previsione, secondo anche la stessa Rai sulla pubblicità, e quindi diventa un pacchetto abbastanza. Insomma, aspettiamo allora, come tu dicevi, Masi, per spiegarci il perché di queste scelte dell'azienda pubblica che apparentemente suonano come antieconomiche. Grazie, ci fermiamo qua per ora con Antonio Franco, giornalista di Mille Canali, su questo aspetto. Adesso vogliamo fare invece rapidissimamente un tuffo nella piscina del Foro Italico, dove si sono svolti e si svolgeranno ancora i mondiali di nuoto di Roma, perché il nostro Dario Ricci ha potuto infilare il piedino nell'acqua, è così Dario? Eh sì, andava proprio così, in realtà il tuffo non è metaforico, ma reale. Stavolta Alessio, c'è stata un'iniziativa organizzata per la stampa dagli sponsor tecnici del mondiale, abbiamo avuto l'opportunità di testare dal vivo questa piscina, di nuotare nella stessa acqua di Michael Phelps e Federica Pellegrini, devo dire l'atmosfera era su per giù la stessa, l'aria e l'acqua la stessa, i risultati sono stati molto diversi, cioè per far 50 metri stile libero ci ho messo 48 secondi e 51, sarei rimasto fuori anche dalla finale, ma dei 100 stile libero, quindi insomma c'è da lavorare. Vabbè dai lavorare. Dario, c'è da lavorare, ma tu dedicati ad altro genere di lavoro, cioè a raccontarceli ancora questi mondiali di nuoto dal microfono, che è la cosa che ti viene meglio sicuramente. Grazie Dario, ci fermiamo qua. 13.58, i titoli di oggi, la questione meridionale verso una svolta, Berlusconi riceve una maxi delegazione siciliana, intanto è pronto il decreto correttivo al decreto anticrisi dopo i rilievi di Napolitano. Oltre 8 milioni di poveri in Italia, quasi 5 italiani su 100 sono poveri tra i poveri, cioè, dice l'Istat, non raggiungono uno standard di vita minimamente accettabile. Precipitano in montagna durante un'escursione, muoiono così padre e figlio di 9 anni sul Monte Cavallo nel Bellunese. 4 film italiani alla prossima mostra del cinema di Venezia, presentata oggi, artisti ancora in fermento per i tagli allo spettacolo. Ai mondiali di nuoto di Roma, Federica Pellegrini trascina le ragazze della staffetta 4x2 alla finale in programma nel pomeriggio. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. In studio Alessio Maurizio, al coordinamento Maria Piera Ceci, regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Carlo Genta con lo sport. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.